Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti. In regia la parte tecnica abbiamo Pietro Alla Corte, in redazione Laura Vanossi. Allora sentiamo insieme il sommario di oggi. Il benessere segue il ritmo della cronobiologia. Se un dolore alla gamba ti obbliga a fermarti, non fare finta di niente. Quando la carica viene da un succo. Gufi o allodole, vi dicono qualcosa questi due animali o nulla di particolare? Se volete saperne di più, seguitemi. Restate dove siete, facciamo tutto noi. Intanto, se volete mettervi in contatto con noi, il nostro numero verde è a disposizione, 824 0024, così come il numero per inviarci i nostri messaggi al 349 238 6666. Sei gufo se ti senti in piena forma di sera e poi di fila anche di notte. E gli amici ti crollano addormentati intorno e tu resisti, anzi, sei pimpantissimo. Ma quanti caffè ci vogliono al mattino per cominciare a carburare? E basta una tazzina o ci vuole una flebo? Sei allodola se già nel buio dell'alba sei scatenato a pensare a cosa devi fare quel giorno e parti con le tue attività prima ancora che sorga il sole. Ma alla sera, già a cena, ti senti stremato e ti cala la palpebra sì e no alla fine del TG. E pensare di andare al cinema al secondo spettacolo è una missione impossibile. Quanti gufi e quante allodole sono in questo momento all'ascolto? Voi scriveteci al 349-238-6666 e alla fine della puntata tireremo le somme. Intanto io mi schiero dalla parte delle allodole, per me il mattino ha l'oro in bocca, la sera invece crollo. Sentiamo il nostro ospite, il professor Roberto Manfredini, direttore dell'unità operativa di medicina interna, ospedale del Delta, ASL di Ferrara, a quale gruppo appartiene. Intanto buongiorno, professore. Intanto buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti voi gli ascoltatori. Beh, credo di solidarizzare anch'io con le allodole, dico la verità. Alle 6 del mattino sono già in piena attività. E alla sera che ora crolla? Alla sera crollo, è fatica vedere il film di prima serata. Poi al limite, se resisto, dopo posso anche andare oltre. Allora, bene, gufi e allodole, seguiteci. Con il professor Manfredini impareremo che ogni cosa, dallo studio all'attività fisica, dal prendere una medicina, fare una dichiarazione d'amore, a sottoporsi ad un esame diagnostico, ha il suo momento migliore. Se avete bisogno di consigli, siamo qui. Basta una telefonata, 824 0024, o basta un messaggio al 349 238 6666. Una mela al giorno. E ora cambiamo decisamente argomento, parliamo di gambe. Se quando camminate, ad esempio, andate a fare la spesa o fate un giro per negozi, dovete fermarvi perché sentite un dolore forte al polpaccio, più o meno simile ad un crampo, non fate finta di niente, perché questa potrebbe essere una richiesta d'aiuto delle vostre gambe che vi segnalano che qualcosa non va nel verso giusto. In linea con noi abbiamo il professor Domenico Tealdi, ordinario di chirurgia vascolare all'Università di Milano e direttore del Dipartimento Cardiovascolare del Policlinico San Donato. Professor Tealdi, benvenuto e grazie. Buongiorno a tutti. Professor Tealdi, cosa succede? Perché questo dolore improvviso e violento? Sì, si verifica quando una persona cammina e dopo un percorso variabile di un centinaio o più di metri deve fermarsi perché insorge questo dolore crampiforme al polpaccio o alla coscia. Si riposa qualche minuto, qualche secondo e quindi può riprendere. Riprende, fa lo stesso percorso di prima e poi gli tocca di nuovo rifermarsi. Infatti, professore, è vero che questo disturbo viene chiamato malattia delle vetrine? Sì, è un modo di dire così, male delle vetrine, perché queste persone si fermano, fanno finta di niente, di non avere un dolore, ma guardano la vetrina e capirà che se è un vecchio signore che si ferma davanti a un negozio di biancheria intima femminile, è piuttosto imbarazzante. Certo, bisogna avere la fortuna di capitare davanti alla vetrina giusta, esatto. Adeguata per l'età. Senta, professore, quindi questo dolore abbiamo detto che è un campanello d'allarme. Sì, è un campanello d'allarme perché vuol dire che una arteria delle gambe è stata occupata totalmente o parzialmente da una placca arterosclerotica, cioè da un accumulo di grasso che si forma proprio a questi livelli In rapporto naturalmente a tutta una serie di cause, tra le quali ricordiamo l'obesità, il diabete, l'importanza terribile del fumo, l'aumento del colesterolo e soprattutto e la sedentarietà. Certo, questi sono dei fattori di rischio. Professore, cosa possiamo consigliare ai nostri ascoltatori che si ritrovano in parte descritti in questa situazione? Parlarne con il medico è importante, invece ci sono tante persone che dicono ma poi mi passa, mi fermo e vado avanti. Esatto. Ecco, bisogna fare due passi in più e andare a parlare con il medico, bisogna professore. Bisogna andare dal medico. Lei pensi che questa diagnosi, se fa uno specialista di chirurgia vascolare, la può fare direttamente soltanto visitando il paziente. Eventualmente il medico di base può avvalersi di esami tipo l'eco Doppler, l'eco color Doppler, che sono esami non invasivi e che fanno veramente una diagnosi di sede ed estensione della malattia. Professore, le persone che si trascurano rischiano grosso, perché? Beh, questa malattia ha tre stadi. Nel primo stadio abbiamo lo stadio della claudicazione, questo sintomo che abbiamo descritto prima è lo stadio della claudicazione. Sì. E di lì si passerà poi al secondo stadio, che è lo stadio del dolore a riposo, perché il sangue arriva talmente poco che determina l'insorgenza del dolore anche a riposo, soprattutto di notte. E poi arriviamo addirittura alla mortificazione dei tessuti più periferici, sì, dei piedi, eccetera, ma di questo è brutto parlarne. Certo, noi non ne parliamo. Noi diciamo solamente che se andando a fare la spesa, camminando, dovete fermarvi per un dolore al polpaccio, fate due passi in più dopo che vi siete riposati per parlarne con il vostro medico. Professore, la ringrazio, la saluto e le auguro una buona giornata. Anche a voi e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Pronto soccorso. Gufi e allodole, torniamo a noi, professor Manfredini. Per chiarezza e semplicità, noi ci siamo divisi in questi due grandi gruppi, ma nella realtà le cose si complicano. Sono già arrivati tantissimi messaggi al 349-238-6666. Ad esempio, Elisa ci scrive: io non mi alzerei mai al mattino, alla sera alle 23 sono già lessa, che bestia sono. Un altro ascoltatore ci scrive: gufissimo da giovane, ora ahimè sono un gufo che vuole essere un'allodola, mi sveglio presto fatica che non riesco ad andare a letto presto, ci scrive Luca. E Federico da Torino ci scrive: e io cosa sono? La mattina e la sera sto benissimo, mi sveglio presto e vado a letto tardi, ma vado in crisi dopo pranzo dalle 14 alle 16 circa. Professor Manfredini. Beh, intanto cose simpatiche, perché veramente si sente che dare delle definizioni generali è molto difficile. Per esempio, la persona che ha quella crisi nel primo pomeriggio è codificato, è quello che noi chiamiamo post lunch dip, è quella caduta di attenzione che avviene nelle ore dopo il pranzo. Tra l'altro scientificamente è provato che anche se uno non ha mangiato oppure ha mangiato un pranzo leggero avviene, perché fa parte dell'oscillazione ritmica del nostro organismo, quindi è l'ora peggiore per stare attenti anche se uno ha mangiato un'insalatina, perché cala la palpebra. Poi ci sono persone che hanno questo strano atteggiamento, che non sono né gufi né allodole. Io penso che voi abbiate probabilmente messo a disposizione quel piccolo questionario. Infatti, che è un questionario. Infatti l'abbiamo fatto, professore. Esatto, è un questionario, la versione che vi ho dato è una versione così un pochino semplificata, però è un test scientificamente validato che si trova su Rivista Scientifica. Poi magari abbiamo messo le domande un pochino più adattate a noi cittadini di tutti i giorni. Quindi, e si può vedere che il vero gufo, sì, e la vera allodola probabilmente sono il 5, forse il 10%, non di più, che estremizzano. Poi c'è una grande fetta di intermedi e c'è una grande fetta di intermedi che magari volge un pochino verso il gufo, volge un pochino verso la lodola. E poi mescoliamo tutto con quello che le attività ci costringono a fare. Certo, allora per i nostri ascoltatori da casa ricordo che il professor Manfredini ci ha messo a disposizione questo test che trovate nell'home page di Radio 24, quindi fatelo, ci sono dei punteggi e capirete che tipo di intermedi siete, possiamo dire così, professore? Sì, senz'altro. Allora, tutti però, professore, gufi, allodoli, intermedi, sappiamo che nel corso della nostra giornata ci sono dei momenti in cui rendiamo di più, altri un po' di meno, momenti in cui ci sembra di essere pieni di energia, forti come un leone, altri invece in cui i nostri acciacchi si fanno sentire di più. Anche l'umore a delle volte va a gonfie vele, altri momenti anche della giornata è un pochino più grigio. Professor Manfredini, però è sempre tutto questione di ritmi, e allora cosa possiamo imparare da questa scienza, la cronobiologia, che i ritmi li studia?

può andare bene, certo. Allora, quindi un messaggio rassicurante per Maila. Però, professor Manfredini, non sempre la nostra vita è in sintonia col nostro cronotipo. Penso ad esempio ai gufi che si devono alzare presto la mattina per andare al lavoro, o alle mamme allodole che devono cullare i bambini in sonno ore tardi. Allora, se siete d'accordo, cerchiamo di capire se il nostro ritmo di vita va a braccetto con il nostro cronotipo. Poi la stessa cosa faremo con la nostra salute. Infatti sappiamo che ci sono delle ore in cui fisiologicamente il nostro organismo è più esposto. Eccoci, siamo tornati insieme. In linea con noi abbiamo il professor Roberto Manfredini. Parliamo di cronobiologia. Ci siamo divisi tra gufi e allodole. Chiedo alle allodole di scriverci, perché i gufi ci stanno battendo, dai messaggi che arrivano al 349-238-6666. Devo dire che sono in maggioranza. Adesso in questa parte della trasmissione cercheremo di capire se i ritmi della nostra vita, che ci impone la vita, il lavoro, la famiglia, vanno un po' sono in sintonia con quelli del nostro orologio interno. Andiamo a sentire Andrea, che ci chiama dalla provincia di Milano. Buongiorno Andrea. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Andrea, lei è un gufo, una lodola o una via di mezzo? Una via di mezzo tendente al gufo, Barbagianni. Un Barbagianni. Senta Andrea, vada subito alla domanda, così il professor Manfredini può dare delle indicazioni a lei e a chi ci sta ascoltando. Esatto, la domanda è questa: io non riesco a dormo non più di 3-4 ore a notte, sì. Per motivi di lavoro, di famiglia, due bambini piccoli, una moglie giovane, sono sempre via, non finisco mai prima di mezzanotte e l'una. Io alle 5, preciso come un orologio, sono sempre in piedi, compreso sì. Sabato e domenica. Premetto che quelle 3-4 ore di sonno, mia moglie mi dice che sono come un sasso, non mi sveglio nemmeno a spingermi, non sento stanchezze, cioè non è che poi dopo in giornata mi pesi la cosa o mi viene la mezz'ora di fare da biocco, di dormire. Mi capita però che ogni mese e mezzo, la domenica pomeriggio mi sdraio e mi sveglio lunedì mattina. Ah, quindi recupera. Professor Manfredini. Beh, intanto il nostro amico si è dato una risposta da solo. Per fortuna riesce ad avere un sonno particolarmente profondo, un sonno particolarmente riposante. E quindi non va in deficit, lui si sente bene, cioè nonostante dorma 3-4 ore, come dice, si sente bene. Sarebbe anzi molto sfortunato se avesse quel sonno superficiale che non arriva mai ad essere profondo. Sappiamo che il sonno ha varie fasi in cui non si raggiunge il livello di soddisfazione e di riposo. Poi evidentemente, come tutti, carica la batteria a un certo punto e poi ci fa una super dormita e si ricarica. Però l'importante è che lui nella giornata, nonostante le 3-4 ore, 4-5 ore di sonno, si senta carico, si senta bene, è un sonno riposante. Andiamo da Fabiola, che ci chiama da Modena. 824-0024. Fabiola, gufo o allodola? Buongiorno a lei. Buongiorno, io ho telefonato perché la trasmissione mi incuriosisce e mi interessa parecchio, perché mi sono sempre ritenuta un gufo. Io per molti anni ho tirato veramente molto tardi la sera. Tra l'altro ho un lavoro molto performante, due bimbi piccoli, e studiando notte e tempo, quindi la sera fino a tardi, sono riuscita a laurearmi anche con ottimi risultati. Brava. E non ho mai accusato stanchezza né deficit a livello di performance durante il giorno. La domanda è: visto che da quando mi sono laureata crollo inesorabilmente alle 9 di sera, se è possibile in qualche modo battere questa mancanza di performance, che forse, non lo so, forse è dettata anche da una mancanza di tensione, no, per raggiungere qualche risultato particolare. Professor Manfredini, un gufo che si sta diventando allodola, di solito è il contrario, almeno leggendo i messaggi dei nostri ascoltatori, ma quale indicazione? È vero, di solito invecchiando si tende semmai a diventare allodole, questo si dorme sempre di meno, ci si sveglia prima. Bisogna vedere per la nostra ascoltatrice se era un gufo naturale o era un gufo indotto, perché come ci ha raccontato, il lavoro, la necessità di studiare, i bambini eccetera, quindi erano dei motivatori particolarmente importanti. Giustamente dice, forse adesso ho meno, tra virgolette, motivazioni, nel senso non sono obbligata a fare quelle cose e crollo prima, magari il DNA forse non era francamente un gufo vero. E poi c'è da dire che comunque ricordiamo sempre che noi abbiamo nel DNA quelle lichine che ci dicono cosa siamo, ma per i ritmi

Io sono sempre stato francamente una persona che ha avuto uno stile di vita molto, molto regolare, cioè io la mattina, anche se tornavo a casa alle 2, alle 3, alle 7 e mezzo mi svegliavo perché alle 8 ero sui libri. Allora, senta Rocco, mi sembra, professor Manfredini, ha tutte le indicazioni, vero, per rispondere a Rocco, che in pratica vuole una riorganizzazione in base alla cronobiologia della sua giornata. Professore, sì, mi pare che noi andiamo a sentire, lei intanto ci pensi. Alcuni di voi stanno facendo il test che ci ha dato il professor Manfredini, che noi abbiamo messo sul nostro sito, e arrivano i primi risultati. Alcuni mi scrivono allodolissima, altri gufetto, altri allodolina. Insomma, state misurando con il test il vostro ritmo. 824 0024. A proposito di ritmo, è arrivato il momento del nostro consiglio di lettura e poi daremo la risposta a Rocco. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop, oggi potete ricevere a casa il libro Figlie di padri scomodi, comprendere il proprio legame col padre per vivere amori felici. Per ricevere questo libro a casa dovete essere il primo ascoltatore a inviarci un'email a esserebenessere@radio24.it con titolo del libro, recapiti e numero di telefono. In collaborazione con IBS.it. E vi anticipo che proprio domani parleremo della figura del padre. Ogni padre lascia un segno, ce lo racconteremo qua a voce alta, faremo una riflessione. Ma professor Manfredini, torniamo a noi, torniamo a Rocco. Sì, mi pare che il dottor Rocco abbia centrato un altro punto: dove si vive? Perché se parliamo, lui ha detto mi sveglio presto la mattina, ha detto 7:30-8, giustamente ha detto siamo a Bari, per cui è una giornata che è spostata in avanti. Sia come pausa, io ricordo perfettamente la brutta figura la prima volta che andai a Barcellona di andare a cena alle 8:30 e di scoprire che stavano cenando i camerieri e non c'è andato nulla, mentre per me era abbondantemente ora di cena. Quindi il discorso di dover poi avere una pausa lunga e di cominciare a lavorare verso le 4, probabilmente anche per via del caldo, certamente come nei paesi latini, sposta un pochino la giornata. Allora, se posso dargli un consiglio, se può naturalmente, perché dipende come lui organizza la sua giornata, si sente svegliandosi a quell'ora di avere ancora sonno, quindi però la sera finisce tardi, se lui facesse un pochino di attività fisica invece che al mattino, quella mezz'oretta, non so se o in palestra con la cicletta o in casa, insomma, più portata verso la sera, un'attività sportiva leggera, mi raccomando, fatta alla sera, fa quella giusta stancata per dormire un pochino prima. Non deve essere però un'attività fisica importante, altrimenti via l'endorfina e poi si rimane sveglio. Certo. Quindi se uno ha bisogno di dormire una mezz'oretta prima, potrebbe fare un pochino di attività fisica alla sera. Roberto ci chiama da Piacenza. Buongiorno Roberto, benvenuto. Roberto non lo sento. E invece andiamo a Carlo che ci chiama da Bergamo. Buongiorno. Buongiorno. Due secondi soli per dirmi completamente d'accordo sull'assoluta piacevolezza della voce della conduttrice. Poi passo. Grazie Carlo. Alle mie domande. Sì, grazie. Allora, io sono un allodolo evoluto in gufo col passare degli anni, ma il problema riguarda mia moglie e sono due quesiti: l'abitudine ad addormentarsi con la televisione accesa in camera da letto, che poi viene spenta da qualcun altro, con mia moglie ormai addormentata, è secondo me un motivo di turba del sonno. Chiedevo se è vero o non è vero. La secondo quesito è se la melatonina su un sonno spezzettato che non giustificato da particolari motivi di ansia, ma con frequenti risvegli, eccetera, può avere un effetto benefico. Grazie Carlo. Professor Manfredini, TV allora, accesa? Sul primo quesito posso dire, esperienza diretta, conosco perfettamente l'argomento e non dico altro perché potrei incriminarmi. Comunque è vero, io credo non ci sia una cosa per addormentarsi come avere il televisore in camera. È la cosa migliore per addormentarsi, naturalmente col televisore che resta acceso, e questo è sicuro. Il rischio poi magari al limite di svegliarsi di notte se uno si è addormentato durante il film di prima sera. La melatonina, problema grosso. Sul sonno spezzettato, quindi sul sonno con gli arousal, con i risvegli, che è quello che fa riposare poco, non è così facile dare una risposta. Bisogna vedere se la persona, per esempio, fa fatica ad addormentarsi, oppure si sveglia precocemente, o se tutte e due poi si spezza. perché una buona anamnesi ipnologica, cioè brutta parola per dire fare una decina di domande, anche di più, per essere più chiari su qual è il ritmo del sonno di quella persona, la melatonina può fare bene, per esempio, per chi sì, può funzionare in chi fa fatica ad addormentarsi, in chi si sveglia molto presto al mattino molto meno. Quindi ecco, diciamo che ci vorrebbe qualche informazione in più sul diciamo che in linea teorica sullo spezzettato solo non fa tanto. Ecco, questo come consiglio. Questo come consiglio. Professor Manfredini, possiamo anche dare dei consigli sulla salute, perché la cronobiologia si occupa in modo particolare delle ore in cui il nostro organismo è più esposto o al contrario più protetto. Possiamo dare delle indicazioni generali per gufi all'odole? Beh, indicazioni generali sulla salute non è, per fortuna non è così clamoroso, ovvero sia, abbiamo parlato dei ritmi fisiologici, fino adesso abbiamo parlato di fisiologia, come l'organismo è organizzato, quindi uno può essere organizzato bene come gufo o come allodola. Se i ritmi si sfasano oppure vengono desincronizzati, ci sono dei disturbi, abbiamo parlato dei lavoratori dei turni, abbiamo parlato per esempio, accennato al fuso orario. Altresì ci sono dei momenti della giornata o della settimana o del mese o dell'anno in cui si incrociano dei ritmi sfavorevoli di alcune funzioni dell'organismo, per cui è più facile che alcune malattie si verifichino in quella finestra temporale. Questi sono studi più recenti, dell'ultima ventina d'anni, non so, malattie cardiovascolari prevalentemente al mattino, aggressività, addirittura desiderio suicidio, intento suicidario, aggressività verso gli altri nelle ore del fine mattina, primo pomeriggio, altri problemi, non so, la colica renale prevalentemente al mattino, insomma di tante patologie stiamo scoprendo le finestre in cui si manifestano più frequentemente. Io vorrei leggerle un messaggio di un ascoltatore che ci scrive: devo fare una prova da sforzo e sono un gufo, me l'hanno fissata al mattino alle 8:30, rischio di farla male? Beh no, farla bene o farla male non è che uno la faccia bene o male, cioè, vuol dire probabilmente se farà un po' più fatica a farla, probabilmente sì, sappiamo che per esempio le coronarie, quelle che noi vogliamo andare a vedere con il test da sforzo, sono un pochettino più chiuse al mattino rispetto alla sera. C'è il flusso è lievemente ridotto al mattino rispetto alla sera, quindi questo può spiegare perché alcune malattie cardiovascolari hanno questo picco, però una prova da sforzo, anche se è un gufo, sicuramente la condurrà ce la potrà fare. Sì. E invece qual è il momento della giornata in cui si sente meno dolore? Devo andare dal dentista, ci scrive Antonella. In linea generale il pomeriggio nelle ore francamente pomeridiane, non so, dalle 3 alle 6 del pomeriggio, pressa poco, la soglia del dolore è un pochettino migliore, quindi si può sopportare un po' di più il dolore in quelle ore, quindi ecco, potendo scegliere un appuntamento al pomeriggio dal nostro dentista. Meglio, vero. Giusy da Palermo ci chiede: se tutti gli esami devono essere fatti al mattino, esami del sangue, scusate, devono essere fatti al mattino oppure dipende dall'organizzazione dei laboratori? Questa è una bella domanda, perché sono vere entrambe le cose, cioè avendo colto il significato dei ritmi si fa la domanda, ma se tutto oscilla, noi tutto quanti facciamo tutto uguale alle 8, certo, è possibile che ci prendiamo? Quindi ha fatto una bellissima domanda. L'organizzazione della nostra vita lavorativa, degli ospedali, eccetera, prevede questo. Siccome non possiamo fare il prelievo alle 2 di notte, possiamo però fare in modo che le persone, i medici e quant'altro, sappiano e conoscano l'organizzazione temporale dell'esame che uno vuole andare a fare. Mi spiego. Se uno fa il prelievo per l'ormone cortisolo, e sa che il picco è al mattino, lui ha capito che quel prelievo che ha fatto quella persona al mattino è il valore massimo della giornata, sta vedendo il valore massimo. Per altre funzioni che invece magari sono serali, deve sapere che quello è il valore un pochino più basso. Certo. E solo in alcuni casi c'è bisogno di fare dei prelievi seriati con le flebo continue, per esempio chi deve fare dei test di endocrinologia sugli ormoni sa che dovrà stare qualche ora in day hospital, fare una serie di prelievi. Professore, Giusy ci ha dato uno spunto per una trasmissione, ne parleremo, perché adesso noi dobbiamo lasciare la linea, e intanto io la saluto e la ringrazio per la sua chiarezza e anche la sua simpatia. Grazie. No, e grazie a lei e alla voce, perché anch'io mi associo. Oh, mamma mia, oggi è la mia giornata. Grazie a tutti. Allora, appuntamento a domani, vi aspetto dopo il GR delle 11. Buona giornata.